logica politica come uno dei grandi fenomeni emergenti, quel libro affronta il nuovo fenomeno della comunicazione di massa, nuovo poi, nuovo fino a un certo punto, perché l'Ottocento e il Novecento hanno preparato largamente, ma insomma gli anni 60 sono gli anni in cui, accanto ai media tradizionali della stampa, ad esempio, e così via, viene ad emergenza un medium nuovo e per certi aspetti rivoluzionario, sconvolgente nel panorama della cultura mondiale, che è la televisione. E McLuhan, in un certo senso, in quel libro cerca di fare i conti con ciò che di nuovo i media elettrici, perché così lui si esprime, stanno portando nella storia della comunicazione umana. Media elettrici. E cosa sono i media elettrici? Beh, sono i media che sono quelle forme, quegli strumenti di comunicazione che possono circolare attraverso la rete elettrica, insomma, e quindi possono diffondersi con quel tipo di omogeneità, continuità, pervasività che ha la rete elettrica. Continuità, omogeneità e pervasività. Cosa vuol dire pervasività? Cos'è pervasivo? Pervasivo, il verbo per vadere, che assomiglia al verbo invadere, significa invadere in maniera diffusa, in maniera omogenea, nel concetto di pervasione. Invadere, capite cosa vuol dire? Invadere significa entrare violentemente in uno spazio. Pervadere significa entrare in uno spazio e permearlo. Per è un prefisso che viene dal latino, che ha diversi significati, ma fra l'altro anche quello del diffusivo, del diffusivo, sì, insomma, del capillare, della capillarità. Dunque, un media pervasivo, l'elettricità ha carattere pervasivo, nel senso che, a differenza della stampa, no, la stampa ve la dovete andare a prendere in edicola o in libreria, ha un carattere puntuale e in qualche modo implica una partecipazione volontaria del lettore, dello spettatore, dell'utente, chiamatelo come vi pare, e del terminale, ecco, considerando l'individuo, il cittadino, la persona che legge come un terminale del processo produttivo. Nel caso della stampa, il terminale è un terminale intenzionato, cosciente, volontario, mentre i media elettrici introducono un nuovo carattere nella comunicazione umana. Un carattere che è per l'appunto definibile come pervasivo, come invasivo in maniera diffusa, in maniera omogenea. McLuhan parla di una nuova pelle dell'umanità, come se l'umanità stesse sviluppando una pellicola comune lungo la quale arrivano messaggi che sono messaggi per gran parte cioè non cercati o non volontariamente perseguiti da parte del terminale umano. terminale umano comincia a diventare un terminale relativamente integrato, in alcuni casi potremmo proprio dire passivo, comunque un terminale sempre più connesso ad una rete. La parola rete comincia a fare capolino, a presentarsi nel pensiero di McLuhan, e come sappiamo la parola rete acquisterà un significato sempre più rilevante nella sociologia della comunicazione, ma anche nell'epistemologia stessa, nel modo stesso di pensiero dell'epoca tardo-moderna. McLuhan è certamente uno dei primi sociologi, che pensatori, che anticipa concettualmente il fenomeno che noi vediamo svilupparsi pienamente solo negli anni 90, e lo anticipa proprio parlando di media elettrici e parlando di una pellicola omogenea del genere umano, e parlando infine di villaggio globale, con questa espressione così incisiva, così visiva, così forte, che diventerà poi un'espressione quasi caratterizzante l'epoca della rete, il villaggio globale. Un villaggio, cioè un luogo nel quale ci si trova a vivere volenti o nolenti, ti svegli la mattina e sei nel tuo villaggio, non devi spostarti per esserci, sei lì. E però questo villaggio non è più un villaggio territorializzato, è invece un villaggio totalmente deterritorializzato. Le parole territorializzazione e deterritorializzazione, e anche una terza parola che è riterritorializzazione, sono tre parole che vengono introdotte così esplicitamente e intenzionalmente nell'uso da due filosofi ai quali faremo qualche volta riferimento, che si chiamano Gilles Deleuze e Félix Guattari. Siccome si tratta di due personaggi importanti per le cose di cui parlo io, ma forse anche importanti per qualsiasi altra cosa, ve li scrivo e vi consiglio, vi dico quali sono i libri più interessanti che questi due signori hanno scritto. Generalmente si dice Deleuze, Gilles Deleuze, si mettono in ordine alfabetico, e Félix Guattari, due francesi, scrivono i loro libri comune insieme a quattro mani negli anni successivi al 1968, diciamo il primo libro che si chiama Anti-Edipo. Territorializzazione. Esce nel 1972, è certamente un libro fondamentale nella storia del pensiero contemporaneo, tanto moderno. Si può dire che è forse nel pensiero filosofico il libro che meglio esprime l'innovazione, la rottura prodotta dal movimento del 68, non perché parli di politica o di studenti, parla di psicoanalisi, di Edipo, del padre, della madre, del figlio, del fratello, e di cose molto strane o molto banali, però ne parla in una maniera talmente sconvolgente rispetto alla storia precedente del pensiero filosofico e della psicoanalisi e della politica, che alla fine questo libro diventa come uno spartiacque, un punto di innovazione profondissima nella storia del pensiero. Poi Deleuze e Guattari scrivono, qualche anno dopo, per la precisione del 1981, pubblicano un secondo libro che si chiama Mille Plateaux in francese, tradotto naturalmente col titolo Mille Piani, 1981. Ed infine, poi scrivono altre cose, ma il terzo grande libro di questi due autori si chiama che scrive filosofia. Che cos'è la filosofia? O cos'è la filosofia? Cioè, tradotto in italiano. Non saranno la bibliografia, Franco? Non ho capito. Nella bibliografia ci saranno questi. Sì, c'è andato. Cos'è la filosofia, che esce nel 1992, mi ricordo. Non sto a parlare di questi tre libri né di questi due autori, perché altrimenti dovremmo fare un altro corso, ma diciamo che Deleuze e Guattari introducono alcuni concetti del tutto innovativi nel pensiero filosofico e anche, diciamo, nella sociologia, nell'antropologia, nel pensiero politico, che posso semplicemente elencarli per poi approfondirne soltanto alcuni, quelli che ci interessano in maniera più diretta. Intanto, nell'Antiedipo, Deleuze e Guattari fanno un discorso sul rapporto fra desiderio e storia e processo in generale, e dicono: non pensiamo che nella storia, adesso interpreto l'Antiedipo, quindi dovete scusarmi, sarà una cosa che dico Tommaso, che probabilmente lo conosce, quindi dirà: ma cosa sta dicendo? No, mi interessa la sua No, ma insomma, quando un libro di 400 pagine cerchi di sintetizzare un po', dici quello che ti viene in mente. Chiaro. Ma insomma, quello che mi viene in mente è: fino ad ora noi abbiamo raccontato la storia pensando che nella storia si scontrino delle idee o delle forze politiche o degli interessi economici. Naturalmente ci sono tutte queste cose, ma ciò che in realtà conta è la forza di attrazione e di sconvolgimento del desiderio. Del desiderio inteso come cos'è il desiderio? Il desiderio è un'attesa, ma il desiderio è anche e soprattutto una creazione. È la creazione di qualcosa che ci motiva a muoverci, ad agire. Dunque il desiderio come forza o il desiderio come campo? Io direi soprattutto come campo. La storia è descritta come il campo nel quale si scontrano dei desideri. Desiderio non è soltanto quello di, che ne so, godere di qualcosa del mondo materiale. Desiderio è anche la immaginazione di una situazione, una realtà, una forma dei rapporti umani, una forma del rapporto fra i corpi, che ci motiva, che ci trascina. Ecco, dunque, la forza di trascinamento del desiderio nel campo storico, che è essenzialmente un campo di conflitto tra forze desideranti. Deleuze e Guattari dicono anche, e qui diciamo mi sposto sul secondo libro, che è più centrato sugli aspetti antropologici del pensiero filosofico, Mille Piani è come una specie di storia dell'umano, dell'intera umanità, come storia del nomadismo, dello spostamento, della territorializzazione, del diventare sedentario, del costruire dei luoghi e poi muovere da quei luoghi verso altri luoghi, insomma una storia della civiltà umana come storia di deterritorializzazione. Ecco, cosa vuole dire deterritorializzazione? Luis Guattari dicono che gli esseri umani non si definiscono rispetto ad un territorio. Sì, nascono sul territorio, ma la loro caratteristica essenziale, forse ciò che fa di loro esseri linguistici, che li differenzia dalla natura animale, diciamo, è la deterritorializzazione, cioè la capacità di immaginare. Immaginare vuol dire spostarsi dal luogo in cui originariamente siamo. E dunque, questo lo fa il desiderio, e dunque creare un mondo immaginario verso il quale ci vogliamo muovere. La storia, soprattutto la storia moderna, è la storia del capitalismo, è storia di una completa deterritorializzazione dell'umano. I contadini dell'epoca feudale, si spostano dalla campagna verso le città, creano le città, i mercanti si spostano dall'Europa, scoprono l'America o vanno in Cina, che ne so. E inizia questo processo di cui il capitalismo diventerà in qualche modo il regno di una costante, continua deterritorializzazione. E però, dicono anche Deleuze e Guattari, gli esseri umani hanno anche un bisogno profondo e pericoloso anche, ma insomma, incancellabile, di sicurezza, di identità, di identificazione. E questo li porta nel continuo processo di deterritorializzazione, li porta a cercare delle territorializzazioni, o meglio, riterritorializzazioni. E questi tentativi continuamente compiuti dai gruppi umani di riterritorializzarsi sono all'origine della spinta aggressiva che spesso si manifesta nella storia umana, della guerra, dell'azionalismo, della costruzione identitaria, razziale, nazionale, politica, anche economica, cioè la creazione della famiglia, dello Stato nazionale o comunque insomma del territorio identitario come qualcosa che sta all'origine dell'aggressività del fascismo. Cos'è il fascismo? Si chiedono Deleuze e Guattari in mille piani, domanda difficilissima, perché noi abbiamo naturalmente una risposta storica alla domanda cos'è il fascismo? È quella cosa che Mussolini inventa dopo la prima guerra mondiale, che poi si diffonde nel mondo provocando guerre. Beh, sì, però se vogliamo trovare una definizione non storica, ma antropologica, filosofica del fascismo, cos'è il fascismo? Umberto Eco ha tentato di rispondere a questa domanda in un piccolo saggio che si chiama Urfascismo, fascismo originario, per dire che il fascismo è un fenomeno essenzialmente contraddittorio, è moderno ed è antimoderno, è nazionalista e quindi afferma la mia patria è la più importante di tutto il mondo, ma lo afferma da tutte le parti, quindi è molto schizofrenico, perché il fascista italiano dice l'Italia è la più importante di tutti, il fascista spagnolo dice la Spagna e così via, allora mettetevi d'accordo se siete tutti fascisti. E no, perché in fondo il problema del fascismo è proprio l'identità, la ricerca paradossale, assurda dell'identità, perché in fondo l'identità non esiste, come spiegano Deleuze e Guattari, c'è una ricerca dell'identità, ma non dobbiamo pensare che la troveremo. Se pensiamo di aver trovato l'identità, siamo pericolosi, prima di tutto per noi, poi anche per gli altri, perché la nostra realtà è una realtà del divenire, non dell'essere identità. E dunque si potrebbe quasi dire che il fascismo è una malattia dell'identità, è proprio una malattia legata al bisogno disperato e quindi aggressivo di identità, non essendoci la possibilità di una identificazione. Dunque il fascismo è aggressione nei confronti dell'altro, perché solo aggredendo l'altro, quindi dire io sono identitariamente italiano, bianco, giusto, questo, quello. E dunque Deleuze e Guattari dicono si può dire che c'è fascismo quando si nasconde una macchina da guerra in ogni nicchia. Bellissima definizione, a mio avviso. Forse la definizione più, io direi la risposta alla domanda, cos'è il fascismo? È il fascismo è una malattia dell'identità. È essenzialmente una malattia. La malattia della identità legata al bisogno paradossale di identità, e dunque una forma aggressiva, e in quanto forma aggressiva il fascismo nasconde una macchina da guerra in ogni nicchia. Che vuol dire nasconde una macchina da guerra in ogni nicchia? Che in ogni spazio dell'esistenza, che sia quello del sesso, che sia quello della politica, che sia quello dell'economia, che sia quello dell'urbanistica, c'è una macchina da guerra. Cioè, dovunque tu vada, pensi che devi sconfiggere gli altri, possibilmente eliminarli, sottometterli, perché questo afferma la tua identità. Potremmo dire che il neoliberismo, da questo punto di vista, è la forma perfetta del fascismo, perché il neoliberismo, affermando la competizione come principio economico universale, ha istituito forse il fascismo definitivo, del quale cominciamo oggi, 30 anni dopo l'inizio della dittatura neoliberista, cominciamo oggi a vedere i risultati. Vabbè, questo è un argomento che Deleuze e Guattari non hanno affrontato. Vabbè, comunque, la questione che mi interessava nel discorso svolto da Deleuze e Guattari è proprio quella della deterritorializzazione. Deleuze e Guattari dunque dicono: la storia della modernità, la storia in generale, ma in particolare più visibilmente ed intensamente la storia della modernità, è storia di una costante deterritorializzazione delle molecole di cui è composta la società. Queste molecole, cioè che sarebbero poi le molecole sociali, non sono necessariamente gli individui, perché gli individui, secondo Deleuze e Guattari, non ci sono in realtà, sono una finzione giuridica. Sì, io mi chiamerei Franco Berardi sulla carta d'identità, e se uno mi chiede la mia carta d'identità gliela presento, ma chi sono io esattamente? Sono io quello che desidera la libertà, o sono quello che ha bisogno di alcuni elementi di sicurezza? Una cosa e l'altra. Se ci penso, io desidero quella libertà lì, e però desidero anche un elemento di sicurezza. Sono io quello che desidera vivere a lungo, o sono quello che è stanco? Sono l'una cosa e l'altra. Dunque io non sono altro che un aggregato di desideri, spesso in conflitto fra di loro, e noi non capiamo il divenire se non, dicono Deleuze e Guattari, come divenire altro. Cioè, c'è la storia della vita individuale fra virgolette, è una storia di divenire altro, come evoluzione personale, ma anche come conflitto costante delle diverse componenti psichiche desideranti che agiscono nell'inconscio. Ecco, questo vi dà anche meglio un po' la percezione del discorso che fanno Deleuze e Guattari, che è anche un discorso sulla complessità infinita del processo sociale, perché il processo sociale non è solo complesso perché ci sono tanti individui, ma perché ciascun individuo è una società al suo interno. E Deleuze e Guattari, da qualche parte, quando fanno gli spiritosi, dicono: questo libro l'abbiamo scritto noi due, che messi insieme già siamo una bella folla. Questa idea dell'intreccio la società intesa come intreccio fra persone. Notate che la parola persona, sapete cosa vuol dire persona? Qualcuno se lo ricorda? Persona in latino cosa vuol dire? Non ci viene in mente. Vuol dire maschera. Persona in latino vuol dire maschera. Non c'è individuo, potremmo rispondere, non esistono gli individui. Individuo, che significa in latino individuum, significa che non si può dividere. È una finzione giuridica l'individuo, perché in realtà l'individuo è divisissimo. Ciascuno di noi, se si guarda dentro, sa quanto divisi siamo, e questa è anche, diciamo, la ricchezza dell'essere. E dunque non c'è individuo, c'è persona, c'è una maschera che noi portiamo come il modo in cui possiamo presentarci di fronte al mondo. Bene, insomma, la questione della deterritorializzazione come questione essenziale che Deleuze e Guattari portano nel dibattito filosofico, antropologico. Bene, in questo processo di deterritorializzazione che Deleuze e Guattari indicano come processo fondamentale del divenire storico, e nel quale, come abbiamo detto, ci sono però delle controtendenze riterritorializzanti che si manifestano in forme molto spesso pericolose, di tipo aggressivo, non sempre, ci sono anche riterritorializzazioni amichevoli, naturalmente. E in questo processo potremmo dire che il divenire mediatico, il processo di formazione del sistema dei media e poi della rete mediatica costituisce un passaggio fondamentale, un passaggio, una sorta di salto di qualità. Tutta la modernità è deterritorializzazione accelerata, ma il divenire villaggio globale costituisce la deterritorializzazione finale, quella che in un certo qual modo ci conduce quasi e paradossalmente alla ricostituzione di una unità, la rete nella quale l'infinito molteplice delle molecole sociali si ritrova in una sorta di superorganismo, di organismo proliferante, ma anche unificato, anche omogeneo, il villaggio globale, di cui parla per l'appunto McLuhan. Beh, tutto questo era semplicemente un modo per dire che McLuhan in quel libro parla dei media, ma in realtà parla anche della trasformazione, della mutazione antropologica che si sta verificando nell'epoca tardo-moderna, nella seconda parte del XX secolo. Parla dunque dei media tradizionali, dei media scritti, dei media della scrittura. Oggi ne parleremo, perché l'argomento che mi propongo di trattare oggi, come avevo promesso, se vi ricordate, alla fine della lezione passata, è la modernità fra protestantesimo e barocco, e non sembra, ma io sto facendo una lunga introduzione a quell'argomento lì, e dunque McLuhan ci parla dei media tradizionali, media della scrittura, ciò che la scrittura e poi la stampa ha innovato rispetto ai media orali, alla comunicazione orale, alla comunicazione di tipo propriamente tradizionale. E poi McLuhan dalla stampa passa a parlare dei media elettrici, ma i media elettrici non sono tutti uguali, c'è la radio con le sue caratteristiche, c'è la televisione con le sue caratteristiche, che ora non, non sto ad approfondire, intanto io vi consiglio di leggere quel libro e un po' di cose le troverete, è un libro facile da leggere, perfino piacevole per molti aspetti. E poi McLuhan intravede all'orizzonte la formazione di questo nuovo medium globale che è la rete, lo anticipa più riprese. Deleuze e Guattari, anche loro, anticipano la formazione della rete sul loro piano, che non è, loro non sono dei mediologi, non in modo così diretto, sono dei filosofi, poi dei filosofi e dir poco, insomma, sono e degli antropologi e degli psicanalisti. Guattari di mestiere faceva lo psicanalista, anche loro anticipano la formazione della rete. In particolare c'è uno scritto dell'anno 1977 che compare poi come prefazione al libro pubblicato nel 1981 con il titolo Mille piani, uno scritto breve che vi consiglio moltissimo di leggere, quello lo metterò in bibliografia a parte, che si chiama Rizoma. Rizoma è un breve testo, una ventina di pagine densissime, di una densità straordinaria, in cui loro parlano di una formazione vegetale, dicendo ci sono le radici ad albero, a fittone, e ci sono i rizomi. Cos'è il rizoma? Il rizoma è, non so, un tipo di radice che sottoterra, invece di seguire un ordine simmetrico, come fa la radice a fittone, segue un disordine totalmente asimmetrico. Non si rizoma, sono radici che vanno in direzioni disordinate. E nel rizoma noi non possiamo individuare alcun ordine, non possiamo individuare alcuna simmetria, non possiamo individuare nessun centro. E, ecco, con questa metafora del rizoma, in realtà Deleuze e Guattari vogliono parlare criticare la visione filosofica dominante e anche politica dominante nella storia dell'Occidente, che loro dicono è un modello ad albero, cioè il pensiero filosofico occidentale, così come il sistema politico occidentale, è fondato su una struttura simmetrica del potere. C'è Dio, ci sono gli uomini, ci sono, oppure non so, c'è lo Stato, c'è la società, ci sono degli ordini da rispettare, c'è un centro, c'è una periferia, ci sono relazioni di tipo simmetrico fra le diverse componenti del sociale, eccetera, eccetera. Questo è l'albero. E loro dicono anche che la mente occidentale è fatta come un albero. Noi pensiamo che l'essere, la realtà, si sviluppa per opposizione. O è così o è così. E se ci sono due possibilità, queste si scontrano e una delle due deve vincere. Out, o. E loro dicono basta, adesso non bisogna più dire o, bisogna dire e. Il modello del pensiero che noi proponiamo è un modello congiuntivo, cioè non oppositivo, come per il pensiero moderno, metafisico, dialettico, politico, o il bene o il male. O il capitalismo o il comunismo, o questo o quello. Loro dicono no, guarda che nella realtà universale e umana non è mai andata così. La verità è sempre stata e questo e quello, e il bene e il male, e il comunismo e il capitalismo, e il prima e il dopo. Nulla scompare nella storia umana, tutto si aggiunge, si congiunge. Questo è il rizoma che Deleuze e Guattari propongono come, direi, paradigma epistemologico fondamentale nell'epoca in cui noi viviamo. Epistemologia. Epistemi. In greco epi vuol dire di fronte. Stemi vuol dire stare. Epistemologia è ciò che ci permette di stare di fronte al mondo. Cioè è l'atteggiamento fondamentale del nostro pensiero, la base stessa della nostra possibilità di pensare. L'epistemologia è quella parte della filosofia che si occupa dei fondamenti della filosofia stessa, del pensiero stesso e in qualche modo anche potremmo dire dell'azione stessa. L'epistemologia si occupa dei fondamenti. Ebbene, Deleuze e Guattari dicono il fondamento deve in qualche modo essere uno sfondamento, cioè non c'è fondamento perché non c'è un centro, un primo, un dopo. Dobbiamo abituarci all'idea di un continuo proliferare dei principi del fondamento stesso e così via, e il modello del rizoma meglio ci spiega la realtà contemporanea, rizoma. Ma se ci pensiamo, questo scritto del 1977 non ci sta raccontando internet? È internet quello di cui parlano Deleuze e Guattari in quel breve scritto, perché internet in un certo modo è il modello mediatico. Quando dico mediatico voglio anche dire epistemico, insomma, cioè quello che fonda poi le forme del pensiero degli ultimi 20 anni, insomma del pensiero a noi contemporaneo. Internet è proprio quella tecnologia di comunicazione che rende possibile una congiunzione di tutto con tutto, di ogni agente comunicativo con ogni altro agente comunicativo, non più o questo o quello, ma questo e quello e quell'altro ancora. E noi difatti siamo sempre più abituati a pensare ad una forma di conoscenza come navigazione e sempre meno ad una forma di conoscenza come gerarchizzazione. Non c'è più una cosa che sta al centro, che sta sopra, un albero che distingue delle opposizioni simmetriche, c'è un mare aperto nel quale noi possiamo navigare se ci dotiamo degli strumenti che ci permettano di trovare ciò che ci occorre. Ecco, dunque il modello E proposto nello scritto Rizoma diventa in qualche modo il principio dal quale la storia uso questa parola tanto per intenderci, la storia postmoderna, qui la uso e qui la nego, non vuole dire niente, ma tanto per intenderci, insomma, la storia che viene dopo la fine del modello gerarchico della modernità e si fonda in fondo su di un paradigma, su di un principio che possiamo definire rizomatico. Una domanda. Prego. Che rapporto possiamo delineare, creare tra il rizoma e il frattale? Interessantissima domanda, alla quale rispondo con questo video. Guarda un po', ti ho anticipato. Prima dai un'occhiata alla cosa di cui parla questo libro. Non so se lo conosci. No. Conosci l'autore, però? Sì. Sì, sì, sì. Cos'è il frattale? No, tu hai fatto una domanda. Perché mi mi sembra una cosa abbastanza diversa dal rizoma, per come diversissima, al punto che direi che è proprio, dunque non so se tu sai che la cosa di cui io mi occupo nella vita è l'opposizione fra il concetto di congiunzione e il concetto di connessione, lo sai perché forse hai letto delle cose su questo. Qui adesso abbiamo parlato del fatto che il rizoma è il principio di congiunzione infinita. Esatto. Congiunzione significando l'incontro non preformato, non precostituito, imprevedibile se vogliamo, fra componenti non compatibili fra loro, corpi umani. I corpi umani non sono compatibili, o si amano, o si respingono, o si incrociano, fanno qualcosa che non è scritto da nessuna parte. Nessuno sa cosa accadrà quando due corpi si incontrano, meno ancora quando 1000 corpi o 100.000 si incontrano. Può accadere di tutto. Nella congiunzione non vi è prevedibilità perché non vi è compatibilità. Benoît Mandelbrot, che è un matematico strano, un artista che si occupa di molte cose, ha pensato il concetto di frattale, frattale dal latino frangere, fractalis, fractum, frangere significa dividere, spezzare. Il frattale è ciò che è stato spezzato, dunque il frattale è una componente geometricamente ricombinabile di un insieme. Il frattale non è una parte, non è un frammento ricombinabile. Mi spiego meglio, voi potete dire che questi sono due frammenti del mondo, però non si combinano fra di loro, non posso mettere così, cos'ha. Così come due corpi umani possono decidere di fare quello che vogliono o che non vogliono, insomma non è previsto che si debbano incrociare in quella maniera lì, anche se la Chiesa Cattolica deconsiglia darci a questo proposito. Questa è la congiunzione. Frattale è un'altra cosa, è un corpo geometrico, non un corpo, un segmento geometrico che viene spezzato in maniera tale da potersi perfettamente ricomporre. Dunque frattale è il fiocco di neve. Scusa? Il fiocco di neve. Per esempio, perché ha una caratteristica geometrica, il cristallo, insomma è una figura geometrica il frattale, che come? È pura matematica. Certamente. È il prodotto di una scomposizione di tipo matematico e quindi è passibile di ricombinazione matematica geometrica. Ricombinazione, perché dei segmenti, buongiorno, perché dei segmenti si possano ricombinare occorre che siano compatibili. Cioè, se non sono compatibili, li metti insieme, al massimo faranno l'amore, cioè al massimo creeranno una novità, ma non, cioè si congiungeranno, ma non si ricombineranno. Se voi prendete una presa elettrica e un plug-in, occorre che questi siano combinabili fra di loro, così come se voi prendete un computer e lo volete mettere in connessione con una rete, occorre che quel computer sia stato precedentemente come posso dire, reso compatibile con la rete. Se altrimenti non succede niente, fa brrr, oppure si brucia, o comunque non fa ciò che voi vorreste. Dunque, perché dei segmenti possano ricombinarsi, occorre che siano fra loro compatibili. Allora, io suggerisco di usare due diverse parole per definire l'incontro fra dei corpi rotondi e la, l, l, l, la combinazione o ricombinazione fra segmenti compatibili, la prima parola è congiunzione, ciò che accade per l'appunto fra corpi o comunque fra elementi eventuali imprevedibili, eventi imprevedibili, e connessione. Nella parola connessione implicita la frattalità di ciò che si connette. Ma allora, quando Deleuze e Guattari parlano di rizoma, e qui cerco di rispondere alla tua domanda, che in realtà apre una problematica che è tutta da affrontare, una problematica centrale dei nostri tempi, il rapporto fra rizoma e frattale. Deleuze e Guattari fanno questa proposta filosofica, dicono: smettiamola di parlare di albero, cioè smettiamo di parlare di una storia in cui tutto è simmetrico, o questo o quello, e cominciamo a parlare di rizoma, cioè di un divenire nel quale è questo e quello, tutto si assomma, diciamo così, tutto si compone, tutto si concatena. Deleuze e Guattari usano, Guattari in particolare, usa un'espressione che è s'agencer in francese, che è una parola matematica, che viene dalla matematica, che in italiano non so come tradurre, s'agencer, e la traduzione che ne diamo è concatenarsi. È l'agencement in francese, è il concatenarsi di elementi che possono stare insieme. Deleuze e Guattari dicono possono fare macchina, ciao, possono funzionare come macchina. Ma qui si fermano Deleuze e Guattari e noi dobbiamo andare avanti, perché poi è arrivata il digitale, e il digitale ci apre un mondo nuovo, che è il mondo della connessione. Non che la connessione non esistesse, ma insomma Guattari si sono arrivati a dire: non c'è o, c'è e, c'è concatenarsi di elementi, di segmenti o di corpi differenti. Ma noi oggi sappiamo che ci sono i corpi che si congiungono e i segmenti che si connettono. Cos'è la connessione? Beh, lo sappiamo bene cos'è la connessione. La connessione è il ricombinarsi di segmenti compatibili. Se noi proviamo a connetterci alla rete elettrica mettendoci dentro due dita, non ne viene fuori niente, forse viene fuori qualcosa di pericoloso. Se cerchiamo di entrare in internet con un computer che non dispone di un protocollo HTML o qualcosa del genere, non otterremo niente. Per connetterci dobbiamo avere reso compatibili, cioè frattali, degli elementi che poi si ricombineranno. Allora, la mia risposta alla tua domanda, in realtà io non ho una risposta, dico, stiamo ponendoci un problema, è: nel mondo rizomatico, che dunque si differenzia rispetto al mondo ad albero della metafisica occidentale, della politica autoritaria e così via, nel mondo rizomatico si aprono due possibilità, che sono le possibilità nelle quali noi viviamo attualmente: la possibilità congiuntiva, la possibilità connettiva. Io direi che il problema che noi viviamo attualmente è che la connessione si sta mangiando la congiunzione. Leggo oggi, stamattina, su l'Herald Tribune l'articolo di un signore che si chiama Ross Douat, che parla di Google Glasses, cioè di questa possibilità che Google sta lanciando di mettervi degli occhiali nei quali voi vedete tutto ciò che prima vedevate in internet, cioè camminate per strada e avete informazioni sulle previsioni del tempo, oppure potete lanciare un messaggio in Facebook o quello che vi pare di dover fare. E lui dice: ma scusa, qui sembra che in questa maniera noi diventiamo sempre più comunicativi. In realtà diventiamo sempre meno comunicativi, noi non comunicheremo più con nessuno, semplicemente costituiremo un mondo totalmente separato, individualizzato, che ci renderà definitivamente soli nell'illusione la mia idea, la mia convinzione è che l'espandersi del tempo connettivo sta eliminando tempo congiuntivo, non solo, ma che il principio di connettività, quindi combinabilità, compatibilità, frattalità, sta informando di sé, sta modellando lo stesso sistema cognitivo umano, cioè il cervello umano e la pelle umana tende sempre di più a trasformarsi in un recettore, in un terminale connettivo e sempre meno ad essere capace di congiunzione. Questo spiegherebbe molte cose di quello che sta succedendo nel mondo, spiegherebbe l'epidemia di depressione, spiegherebbe qualcosa del fenomeno del panico, spiegherebbe l'epidemia suicidaria, spiegherebbe la guerra che si diffonde, spiegherebbe molto della precarizzazione, forse la precarizzazione a sua volta spiegherebbe la connettività, ma insomma il rizoma si biforca, in realtà il rizoma si prolifera, altro che si biforca, ma dentro il concetto di rizoma, che possiamo chiamare anche agencement, concatenazione, si aprono due possibilità concatenative. L'una è la possibilità, la modalità congiuntiva, l'altra è la modalità frattale o connettiva. Quindi, per intendersi, provo a mettere insieme un po' di cose, però se il rizoma è un sistema complesso, il frattale è l'emergenza di questo sistema complesso, inteso come emergenza, il ripetersi di determinate forme, basato sulla connettività. Ne hai detta un'altra adesso, non so se te ne rendi conto, che intravedo. Hai detto che dal momento che il rizoma costituisce un sistema di complessità, io ti suggerirei infinita, in un regime di tipo rizomatico, quale è ad esempio quello di internet, ti occorrono dei riduttori di complessità. La frattalizzazione è un riduttore di complessità. Il problema è proprio questo, che noi in una situazione in cui le possibilità di concatenazione sono infinite, tendiamo a ridurle e il potere si fonda su di questo. Bill Gates ha detto una volta: power is making things easy. Il potere consiste nel rendere le cose facili. Cioè il potere, in una situazione di complessità infinita, cosa fa il potere? Ti offre delle interfacce di riduzione di complessità. Tu sei costretto ad andare lì e fai quello che il potere vuole che tu faccia. Per cui nell'internet degli anni 90 si sono costituiti prima i portali, poi l'anti-internet che si chiama Facebook, che è essenzialmente l'anti-internet, insomma è la riduzione di complessità, ai mille colori si sostituisce il colore unico, eccetera, eccetera, la predisposizione delle forme di risposta possibile, eccetera, eccetera. Sì, questo, così è. Puoi dire, alla fine è l'atto del nominare, in un certo senso, cioè chi decide cosa tu vedi negli occhiali, e dà il nome alle cose. Beh, puoi anche usare la metafora dell'interfaccia che ti permette di andare in discesa, cioè il potere consiste nel predisporre dei percorsi in discesa, per cui tutte le palline tenderanno ad andare a finire lì, a meno che ci siano delle palline molto resistenti che invece no, vogliono fare, che lo facciano. Questo non cambierà nulla, per cui il dissenso diventa del tutto irrilevante in un sistema di ipercomplessità, perché la facilitazione diventerà la strada dominante del potere e il dissenso diventerà semplicemente un fenomeno di anomia senza contagio, senza effetti. Bene, io adesso sospenderei un attimo e poi apro un capitolo totalmente diverso, che è quello della diciamo genesi storica, antropologica, culturale, perché qui adesso sembra che abbiamo perduto il nostro argomento, come dovevamo parlare del denaro come forma di comunicazione, invece qua ci siamo perduti in, non ci siamo perduti, cioè ci siamo perduti, ma tanto, però no, ritroveremo la strada. Come la ritroveremo? Io adesso cercherò di raccontare la premessa dell'economia, della storia economica della modernità, a partire dal momento in cui la modernità inizia, scoperta dell'America, riforma protestante, cultura barocca e controriforma in Italia ed in Spagna. Come vedete, da argomenti così astratti e filosofici passeremo ad un argomento invece molto terra a terra, storico, e in realtà io cerco di fare un discorso sulla storia moderna della deterritorializzazione, storia della deterritorializzazione moderna, ecco, diciamo così, perché in quel momento, nel momento in cui inizia la modernità attraverso alcuni eventi di potenza simbolica e di potenza materiale straordinaria, come la scoperta del nuovo mondo, come la riforma protestante e come la riforma, la controriforma cattolica, a partire da questi momenti in qualche modo nasce la modernità capitalistica borghese, e nasce l'Occidente anche in qualche modo, ecco, mi piacerebbe poi anche appunto chiederci il danaro e l'Occidente, che rapporto c'è. Vabbè, insomma, adesso di confusione l'abbiamo già fatta abbastanza, ci fermiamo un attimo e ricominciamo. Voi non c'eravate l'altra volta, mi pare. Perché ho... Prego. Ho altre lezioni a tempo stesso, quindi non c'ero prima. No, ma non è un problema, giusto, perché siccome, dunque, l'italiano, come siamo? Capisci bene l'italiano?